cibo, quello che ti deggio svelar da te richiede lungo silenzio e fido. Obbedisco al tuo cenno e qui mi siedo. Sappi che a questo il ciel concesse unica figlia, amata quale da mezza Naida, un giovin prege tetolate a dimora in vaghissi di quella. Il debil sesso, il prence ardito, e amore per sì che tra di loro occulta face accendesse Imeneo. Così rimase la semplice donzella, oh qual errore, privo del suo candore. Ma pro intende, don Prince? Qui non finisce, ascolta. Il disleale l'abbandonò, d'un altro amor s'accese, conchiuse altro Imeneo. Ora il misero padre chiede da me consiglio. Tu che faresti? Non son degno a sé. Rispondi. Non ardisco. Bel comando. Sforzar vorrei quel traditor, quelle mio, che di sua man svenasse la sposa sua. Poi quella mano stessa, fumante ancor del sangue, deletta sua sposa, egli porgesse alla tradita sì, ma sono meno. Al mezzo eleggi, prendi questo e quel foglio, aprilo e leggi. Padre, un fier traditore con occulto Imeneo sposa mi rese, poi partì, mi lasciò, si strinse ad altra donna e non gli basta, mi vien dinanzi unito a quella e fassi giuoco dell'onor mio, nella mia vita veleno il più funesto. Con temerario ardire, arcipo è questo. Arcipo è questo! Appunto! Mente! Almen signore, venga Zanaida! Veggami! E se può, mi convinca! Ecco, già viene!